incominciato, lascia perdere. C'è un corso, mi sembra. Sì. Hai cominciato? Sì. Ok. Se mi dici che il conto di servicing c'è, ti vado a prendere. Lascia perdere. Sicuramente stasera non lo facciamo, ok. Quindi stasera abbiamo il sutra, quindi direttamente cerchiamo di aggiustare la propria mente, cerchiamo di prendere in considerazione tutti gli esseri senzienti, vedere che sono nella nostra stessa situazione, esattamente come noi non abbiamo mai abbastanza felicità, cerchiamo sempre la felicità, essere contento con ciò che è piacevole, esattamente tutti gli esseri sono in questo stessa dinamica, ricercano la felicità, però esattamente come noi sperimentiamo giorni dopo giorni varie difficoltà e insoddisfazione. Questa è la natura della nostra esistenza, quindi dobbiamo cercare. Adesso che abbiamo trovato c'è un metodo che ci permette di eliminare le cause della sofferenza a livello della propria mente, di metterci più per guadagnare stati di serenità, essere anche di beneficio agli altri, dovremmo quindi allargare la nostra motivazione non soltanto a essere qui, a impegnarci in queste varie attività, riflessione, studio, non soltanto per il guadagno della propria felicità, ma per fare che la propria mente diventa anche una fonte di benessere, di pace per gli altri. Perché questo si chiama lo stato di Buddha, è quel tipo di mente che ha questo scopo, si chiama la mente di Bodhicitta, quindi cerchiamo di generare questo desiderio, ci possa anch'io ottenere lo stato di Buddha per essere il più grande beneficio a essere senzienti. Questa è la mente di Bodhicitta, è la mente la più virtuosa che possiamo generare, e è congruo o in sintonia con il tipo di insegnamento che andremo a ricevere, perché questi insegnamenti presentano gli stadi per accedere a quel livello. Quindi dopo, aggiustando la propria motivazione, recitiamo per quelli che conoscono la presa di rifugio. Sangye cha dam sangye cha nam lo e zhan jo ba du da ne kyab su chi da ge chen so ge pe sa nam ge ro la pen che sangye dro pa jo Sangye jadan sangye janam laya janjo bandhu dhane gyatsu chi Dagye chin sangye pe sanam gye Drobla penche sangye droba jo Sangye jadan sangye janam laya janjo bandhu dhane gyatsu chi Dagye chin sangye pe sanam gye Lola Benji Sangye Droba Okay. quindi siamo rimasti quindi siamo nella sezione che è l'addestramento per l'essere di motivazione iniziale, ok? Quindi abbiamo visto che questo compone due parti: lo sviluppo della determinazione a prendere l'essenza di questa preziosa rinascita umana e l'addestramento effettivo nel metodo per prendere l'essenza di questa preziosa esistenza umana. Quindi il come sviluppare la determinazione di prendere l'essenza, abbiamo visto che ci sono tre parti. Abbiamo visto che c'è questo costituisce la riflessione sulla preziosa rinascita umana, quindi il riconoscere la sua entità, quindi dotata di 18 attributi. Il meditare il suo grande valore e il meditare anche la grande la difficoltà di ottenere quel tipo di esistenza. Questo è stato fatto. Poi abbiamo l'addestramento nel metodo effettivo per prendere l'essenza di questa esistenza e questo troviamo i tre livelli di motivazione per quello che riguarda il nostro, cioè il livello di motivazione nel quale siamo impegnati in questi, cioè all'inizio, quello proprio iniziale, ok? E quindi l'addestramento nel restare del sentiero della persona di scopo iniziale, ok? E questo ha due parti, ok? Lo sviluppo dell'aspirazione a sperimentare o fare l'esperienza di felicità dei stati superiori nelle vite future, ok? E il metodo per ottenere la felicità nei stati di esistenza superiore nella vita futura. Okay? Siamo a queste due suddivisioni, quindi stati di esperienza di esistenza superiore vengono considerate come l'esistenza umana, per esempio. Okay? Quindi lo sviluppo dell'aspirazione a sperimentare la felicità nei stati superiori, questa due parte, il meditare sulla morte e l'impermanenza e il meditare sulla sofferenza dei stati inferiori. Okay? Quindi siamo in questa prima sezione. Okay? Che il meditare sulla morte. Allora, come dicevo l'altra sera, qual è lo scopo di riflettere sulla morte e l'impermanenza? Sicuramente di non diventare depressi, questo non è lo scopo, ok? Lo scopo è di realizzare che non siamo a lungo in questa vita, ok? Che il momento nel quale possiamo essere separati dalle apparenze di questa esistenza, vedremo che può accadere ogni istante, quindi lo scopo è di smettere di posporre cioè la pratica o lo studio, sì, di rimettere a domani quello che si dovrebbe essere fatto, quello che per esempio lo studio o la pratica di un sentiero spirituale che permette di guadagnare certe qualità, di guadagnare una certa serenità e di assicurarci che nelle vite future le cose accadano, diciamo, più o meno piuttosto bene. Okay? Quindi per evitare, per generare questa spinta che ci fa cogliere, che ci permette di impegnarci adesso in queste varie attività, queste varie pratiche, abbiamo la contemplazione, della morte e dell'impermanenza. Okay? Abbiamo visto, per primo quali sono i vantaggi, abbiamo visto che sono, scusate, i svantaggi al non avere presente, cioè a nascondersi. Il fatto che dobbiamo andarsene di questa vita, a non pensare alla separazione dell'apparenza di questa vita. Ci sono sei inconvenienti principali. Okay? Il primo è che, diciamo, andiamo velocemente, vi rifaccio i punti della settimana scorsa, velocemente. Il primo è che pensiamo solo a ottenere felicità e evadere le sofferenze, di questa vita. Okay? E in questo contesto, quindi, non ci sono, è impossibile che la mente possa pensare a delle cose superiori, cioè di meta superiore, ok? Quindi la mente è rinchiusa nell'ottenere la soddisfazione nell'istante e di evitare le sofferenze o le difficoltà nell'istante, ok? Quindi in questo caso, anche se effettivamente riusciamo a metterci in contatto con il sentiero spirituale, come il buddismo per esempio, però può essere un'altra cosa. Allora, queste pratiche, questi studi, questa meditazione che facciamo, tutti questi sforzi che facciamo, sono comunque miscolate con l'interesse di questa vita. Quindi Quindi le virtù che vengono sviluppate non sono così potenti. Okay? L'altra cosa è che non possiamo evitare, avendo questo scopo di questa vita, non possiamo evitare che la nostra etica degenera. Okay? Di solito si guardiamo un po' il perché quando ci sono queste azioni come l'uccidere, cioè il mentire o il separare le persone o ferire le persone, tutte queste azioni che feriscono gli altri, che sono di danno agli altri, da rubare, eccetera, sono compiute per ottenere la soddisfazione di questa vita esclusivamente. Cioè, quindi c'è come motivazione l'ottenimento della felicità istantanea. Quindi sì, la mente non si stacca o non è un po' mollato diciamo, le apparenze o l'interesse esclusivo di questa vita, diventa molto difficile avere un'etica molto pura, okay? Che è previa di queste varie attività. Questa è un'altra cosa. Un'altra è che è impossibile prevenire la pigrizia che pospone a domani, okay? Pospone a più tardi, oh, prima devo finire questo, prima devo fare questo, quindi è impossibile di posporre, okay? Di prevenire il posporre. E l'altra cosa, abbiamo visto che quando abbiamo come pensiero esclusivo, quando siamo seduti, quando abbiamo sotto la mente che guarda l'ottenimento della felicità in questa vita, allora è estremamente difficile prevenire il sorgere dell'attaccamento e l'avversione, perché cadiamo sotto il desiderio per beni e servizi. Quindi automaticamente generiamo avversione per ciò che mette in pericolo l'ottenimento di questi beni e servizi. Okay? Quindi quando la mente è circondata a questa vita, è molto difficile che queste attività mentali come la brama, la gelosia, l'orgoglio, la belligeranza, il risentimento, l'avversione vengano pacificate. Quindi è impossibile. Ok, e poi abbiamo visto che c'erano i benefici, quindi, di sviluppare una consapevolezza genuina della morte e dell'impermanenza, ok? E infatti, cioè in breve, è l'opposto di quello che abbiamo visto fin d'ora, quindi abbiamo la persona che percepisce, che è consapevole che a un certo momento se deve andare di questa vita, smette di essere focalizzato sulle apparenze di questa esistenza e incomincia a percepire l'ottenimento dei vari amici, dei vari possedimenti, eccetera, come un po' prive di significato, priva di significato. E quindi sì, e in questo modo la mente si gira anche delle azioni non virtuose per ottenere queste varie cose. Okay? E cerca di invece fare di questa vita di sfruttare l'opportunità, di sfruttare al massimo l'opportunità che gli è data in questa vita per assicurarci stati di esistenza fortunati nel futuro. Okay? In questo caso facciamo di questa vita un supporto per grande felicità temporanea e permanente, cioè durature. Quindi dopo siamo entrati nel metodo effettivo di generare una consapevolezza dell'impermanenza. Quindi adesso entriamo nel processo proprio meditativo, come addestrare la mente per generare questa consapevolezza della morte e dell'impermanenza, il cioè addestramento effettivo. Quindi queste cose, per quelli che sono veramente interessati a proseguire su questi stadi, non lasciate le cose sulla carta, non lasciate le cose. Queste cose vanno portate a mente, tutte queste cose sono le cose sulle quali bisogna riflettere, okay? Ascoltarle una volta, due, tre non basta, bisogna riflettere e bisogna a guadagnare una convinzione molto intima con tutti questi vari aspetti, bisogna analizzare. Quindi dico sempre, no? Il buddismo, la sua qualità principale è che è basato sull'analisi personale e sulla la verificazione personale dell'insegnamento. Okay? Il semplice ascoltare le cose non potete generare una coscienza valida rispetto all'insegnamento, rimanete allo stadio dell'ipotesi valida. Al massimo può essere un'ipotesi valida, l'ipotesi valida, anche se è valida, non ha la forza di eliminare la sua classe discordante, che è una concezione erronea, no? Tutti gli insegnamenti del buddismo sono fatti per eliminare concezioni erronee che abbiamo. Questo è lo scopo, no? Perché lo stato di felicità e di benessere viene attualizzato dal punto di vista della serenità della mente, cioè la salute della mente. Quindi nel buddismo la mente salutaria, che ha ritrovato la piena salute, è la mente di Buddha. Quindi chi non ha una mente del Buddha, per i buddhisti, è una persona ammalata, a un livello un altro, ok? Quindi noi abbiamo varie malattie mentali, okay? Abbiamo l'avversione, abbiamo la brama, abbiamo tutte queste cose, sono malattie mentali e impediscono la felicità, la serenità. Okay? Separare la mente di queste attività è qualcosa di possibile, però per eliminare queste attività mentali bisogna eliminare le concezioni che sono il fondamento per il sorgere di queste varie attitudini mentali, queste varie forme di mente distorte. Okay? Quindi tutti questi insegnamenti sono fatti per eliminare queste varie concezioni erronee che abbiamo. Questo è lo scopo temporale. Lo scopo ultimo è l'ottenimento, lo scopo finale è l'ottenimento della felicità. Quindi, per esempio, perché meditiamo sulla morte e l'impermanenza? Perché abbiamo la concezione di permanenza, morte e l'impermanenza, perché abbiamo la concezione di permanenza. Abbiamo la concezione, anche se sappiamo a livello analitico che le cose sono prodotte, cambiano e sono distrutte, il modo nel quale la nostra mente, in un modo, non analitico e spontaneo, interagisce con le varie persone, fenomeni, situazioni, è che secondo me forse tutto era statico, permanente. Per esempio, quando attraversiamo una difficoltà, un problema, noi non pensiamo che questa difficoltà o questo problema è momentaneo, dipende da cause in condizione, e a un certo punto si finisce questa situazione, questa difficoltà. No, la nostra mente è completamente immersa nel problema. Okay? È sempre che questo problema, questa situazione diventa una situazione permanente per noi, no? Non pensiamo mai che il tempo comunque in un certo modo o in un altro sta lavorando per noi, perché tutto dipende da cause e condizioni. Quando le cause e condizioni si finiscono, il risultato si finisce. Okay? Quindi il nostro modo è anche, quindi sia nei momenti di difficoltà non pensiamo all'impermanenza, ma anche nei momenti di felicità. Non pensiamo all'impermanenza. No? Dopo un momento di felicità, necessariamente c'è un istante di infelicità. Dopo un periodo di felicità, necessariamente c'è un periodo di felicità. Okay? Tutto è permanente. Infatti, diciamo che tutto ciò che è prodotto cessa, tutto ciò che è stato accumulato viene Disperso. disperso, e tutti quelli che sono stati riuniti si separano a un momento o a un altro. Nel migliore dei casi siete separati al momento della morte, ok? Quindi generare attaccamento per i vari oggetti, per le varie persone, per le varie situazioni e andare all'incontro delle difficoltà, perché comunque a un momento o un altro sarete separati o le cose cessano. Quindi dobbiamo cercare di avere un approccio molto più salutare di queste varie situazioni, molto più salutario. Quindi si gode della cosa, però sappiamo comunque che a un certo punto si finisce, quindi non c'è bisogno di diventare come i bambini, no? Capriziosi quando la cosa si finisce, o di sentirsi cadere dall'alto quando c'è una separazione o qualcosa. Non dico che non c'è un'esperienza di sofferenza, dico soltanto che è nella natura delle cose, e visto che non siamo preparati a questi eventi, perché non ci pensiamo mai, perché non entriamo in contatto con la realtà, allora ogni volta cadiamo dall'alto, okay? Possiamo fare in modo di cadere di sempre di meno alto. Quindi siamo nella generare una consapevolezza della morte, ok? Vi ripeto, lo scopo è di generare lo scopo di meditare sulla morte, associata alla contemplazione della preziosa rinascita umana, è per fare in modo che la mente si distacca, okay? Non sia focalizzata univocamente sulle apparenze di questa vita e ottenere le cose esclusive di questa esistenza. È questo lo scopo. Comprendendo a un livello sempre più profondo e familiarizzandosi con questo pensiero che dovremmo andare a uscire, cioè andare via di questa esistenza, allora la mente incomincia a pensare a qualcos'altro, qualcosa che viene dopo. Questo è lo scopo, di estrarre la mente dalla focalizzazione univoca di questa esistenza. Vi ripeto, questa esistenza è una, ok? È anche molto breve. Invece le esistenze future sono molteplici e certi sono molto più lunghe. Quindi è nel nostro interesse di cogliere queste possibilità che abbiamo per produrre le cause di felicità durature nel futuro, di buone condizioni nel futuro. Okay? Quindi il modo di coltivare la consapevolezza della morte, questo abbiamo visto a tre parti, no? Questa si chiama la meditazione in 9 cicli. Meditazione in 9 cicli. Quindi abbiamo tre radici, ciascuno ha 3 ragioni, e dobbiamo abutire. Si dice abutire? No, questo è francese forse. Raggiungere attitudine. 3 attitudini. Ok? Quindi per primo dobbiamo considerare, cioè dove sono i miei titoli qui? Ok, allora, dobbiamo la prima radice, quindi è considerare o ragionare, che okay? Ci sono 3 modi di ragionamento per guadagnare la convinzione che la morte è certa. Questo è il primo passo, generare la convinzione che la morte è certa. Poi abbiamo l'utilizzo di 3 modi di ragionamento per guadagnare la convinzione che il momento della morte è incerto. Okay? E alla fine quindi abbiamo 3 modi di ragionamento per guadagnare la convinzione che al momento della morte e che dopo la morte solo la pratica spirituale di beneficio. Okay? Quindi queste sono le 3 radici. Quindi l'altra volta insieme abbiamo visto la prima intera, mi sa. Quindi la rifaccio velocemente. Siamo nella contemplazione che il momento della morte è certo, e per questo si riflette, ok, che quindi che la morte viene definitivamente. Okay? E non c'è modo di evitarla, quel sia il supporto fisico, quel sia il tipo di corpo, abbiamo visto, quel sia il livello di realizzazione, quel sia il potere, finanziario o il potere politico che uno ha, non può evitare non può evitare questo momento. Okay? L'altro abbiamo visto. Qualsiasi il posto dove ci troviamo, la morte non può essere evitato, e quindi abbiamo visto anche sì, che non c'è modo di evitare questo momento, qualsiasi la forza fisica, qualsiasi il potere delle sostanze vengono utilizzate, non si passa al di là. Il secondo è il contemplare che il momento della morte non può essere, scusate, che la durata della vita non può essere prolungata, può essere prolungata, e che istante dopo istante ci avviciniamo di questo istante, di questo momento, no? Quindi qui abbiamo visto i vari modi di farlo, ok? Quindi dal momento in quale siamo nati, incominciamo a indirizzarsi verso la nostra morte, okay? Istante dopo istante. Non c'è modo di frenare questo processo, okay? Siamo in uno stato di disintegrazione continua, non c'è modo di frenare questo processo, non c'è modo di bloccarlo. Quindi ogni istante, quindi ogni respiro, potete utilizzare il respiro, potete utilizzare i secondi, potete, quello che volete per riflettere in questo modo. Ok? E abbiamo visto il terzo. Il terzo è che ci è rimasto poco tempo, okay? Anche se andiamo fino alla fine, nel migliore dei casi, fino alla fine dell'utilizzo della forza vitale proiettata dal karma, quindi un essere umano più o meno 80 anni, 80, 90 anni, 80, nel migliore dei casi, visto, considerando tutte le nostre attività in una giornata, ci è rimasto poco tempo a dedicare alla pratica spirituale. Abbiamo visto, dobbiamo dormire, dobbiamo lavorare, dobbiamo lavarci, fare la spesa, occuparsi dei figli, dobbiamo anche rilassarsi. Quindi alla fine di una giornata di 24 ore, anche se una persona è veramente motivata, si passa mezz'ora in pratica spirituale, è fantastico. Okay? Quindi alla fine ci è rimasto poco tempo. Abbiamo fatto il calcolo su una vita di 60 anni. Se accumuliamo tutti questi istanti di pratica, sono 5 anni su 60 anni, tutto il resto è dedicato al mantenimento di questa esistenza. Ok? Quindi siamo arrivati qui l'ultima volta. Adesso entriamo nella seconda fase. Ci sono delle domande rispetto a questo? No? Ok. Quindi entriamo nel secondo passo di questa contemplazione, che è riflettere sul fatto che il momento della morte è incerto. Quindi fino adesso abbiamo generato la certezza della morte, ok? E adesso il secondo passo è riflettere sull'incertezza del momento. Quindi possiamo utilizzare il testo, se qualcuno di madrelingua italiana può leggere, cioè così evito anche di torturarvi. Ok, quindi siamo a pagina. Contemplare che la morte è certa, 2B1A1A. Ok? Quindi questo non l'abbiamo letto l'altra volta, quindi sì, qualcuno può leggere. Questo contemplare che la morte è certa. Prima leggiamo contemplare che la morte è certa e dopo andiamo, perché questo non l'abbiamo letto, quindi così ce lo vediamo. La raccolta asserisce: se il Buddha, gli autobuddha e anche gli editori di quei Buddha abbandonano questo corpo, che bisogno c'è di menzionare gli esseri ordinari? Inoltre la raccolta asserisce: ovunque si dimori, non esiste un luogo nel quale la morte non colpisca. Esso non esiste né nei paradisi, né nelle profondità dell'oceano, e nemmeno se si dimora all'interno delle montagne. Benché i Buddha perfetti e completi che vennero nel passato ottennero il potere sulla nascita e sulla morte, essi sono già andati al di là del dolore. Analogamente, quando le infinite spiegazioni di cronache, storie e così via non vengono esaminate, i pandita, gli addetti, i ministri, i bodhisattva e così via dell'India e del Tibet, le innumerevoli persone superiori, inferiori ed intermedie che sono venute, come pure il Dharma che è sorto, sembra che esistano anche ora. Tuttavia, quando vengono analizzate bene, escludendo le mere storie di quello che avvenne prima, si trova che essi hanno già indicato il modo di andare al di là del dolore e non dimorano più in alcun luogo, tempo o circostanza. Gli oggetti diretti della propria esperienza, gli infiniti esseri trasmigranti che erano nemici, amici e tra i due, come i propri maestri, studenti, genitori, fratelli, amici, parenti e così via, sono già andati in un altro mondo. Fra coloro che vengono chiamati gli esseri umani che sorsero nel passato, non ve n'è nessuno di cui si possa dire lui è scappato dalla morte. Avendo eliminato questa possibilità con la sola osservazione di se stessi, come potrebbe non essere necessario morire? Anche se si è in grado di raggiungere la lunghezza di vita chiamata le 60 cadute separate, colui che ha esaurito la vita è privo del potere di non andarsene. Ogni giorno giunge alla fine con le sue 21.000 inalazioni ed esalazioni del respiro. Ogni mese giunge alla fine con 30 giorni ed ogni anno finisce con 12 mesi. quando solamente 5 di tali 12 anni, che vengono designate come un ciclo di anni, è passato, si raggiunge anche la fine della lunghezza della propria vita. Perciò il divertirsi nel grande oceano asserisce. Le tre esistenze sono impermanenti come nuvole autunnali. La nascita e la morte degli esseri trasmigranti è simile ad osservare uno spettacolo. La vita passeggera degli esseri trasmigranti è simile al fulmine nel cielo. Come una cascata scorre rapidamente. Senza perdurare nemmeno per un istante, le cose del passato, come il cibo e la ricchezza, gradualmente si sono estinte. Tuttavia, esse non sono come se se ne aggiungesse di nuove. Poiché non vi è alcuna aggiunta alla vita che è stata estinta, l'impegnarsi nelle attività di Bodhisattva asserisce. Questa vita trascorre costantemente, non si ferma né di giorno né di notte e mai si prolunga. Perché la morte non dovrebbe giungere per uno come me? Riflettendo bene dal punto di vista di analogie e di ragionamenti, si mediti fin tanto che si determina che la morte certamente verrà. Ok, fermiamoci qui a due secondi. Quindi qui, in questa prima sezione, che è il contemplare, generare la certezza della morte, abbiamo queste tre suddivisioni, no? Uno è quindi che è impossibile passare al di là della morte, ok? Qualsiasi quindi il tipo di persone, qualsiasi tipo di individuo. Quindi questo è il modo di meditare. Poi dobbiamo riflettere sul fatto che a ogni istante ci avvicina di questo di questo evento. Ogni istante è un passo verso questo incontro, no? E quindi è il terzo punto, è vedere che ci è rimasto poco tempo. E quindi alla fine di questa triplice contemplazione dobbiamo far sorgere questa mente, no? Devo praticare il Dharma. Questo è il modo, ok? Quindi abbiamo, quindi c'è questa prima ragione, queste tre contemplazioni, e alla fine dovremo cercare di far sorgere questa determinazione: devo praticare il Dharma, okay? O devo dedicarmi alla pratica spirituale qualsiasi, okay? Questo è il modo di fare, chiaro? Ok. Contemplare che il momento della morte è incerto. Meditando in questo modo, alla fine non si andrà per davvero al di là della morte. In quel mentre, con lo sforzarsi nelle attività che soggiogano i nemici e proteggono gli amici, come pure nelle condizioni favorevoli alla pratica del Dharma e così via, se si pensa io praticherò il Dharma alla fine, dal momento che nel passato coloro che erano molto più giovani di noi stessi sono morti, e al presente coloro che sono più vecchi di noi rimangono, non vi è nessuna certezza che noi non moriremo prima di loro. La raccolta asserisce, siccome non si conosce quale tra i due il domani o il prossimo mondo verrà per primo, non ci si sforzi per il domani, ma ci si sforzi propriamente per il beneficio del prossimo mondo. Non è determinato quale tra i due il domani o la prossima esistenza intermedia verrà a stabilirsi per prima. Per coloro che, dal punto di vista dei molti metodi, tali come le diete, i trattamenti medici e così via, pensano vi sono molte condizioni per vivere, la preziosa ghirlanda asserisce. Le condizioni per la morte sono molte, quelle per vivere vi sono, ma sono poche. Esse sono anche condizioni per la morte, perciò si pratichi costantemente il Dharma. Del cibo non salutare, delle medicine sbagliate, il crollo di un edificio, il distruggersi di una barca, l'inganno di un amico e così via. Le condizioni per vivere molto spesso divengono condizioni per la morte. Non solo questo, per via del danno dovuto a spiriti delle regioni superiori, si mediti fino a quando sorge definitivamente l'esperienza che il tempo della morte è incerto, pensando, in che modo è certo che quella morte non verrà ora anche per me? Ok, grazie. Quindi adesso c'è la seconda parte di questa meditazione, che è il generare la certezza che il momento della morte è incerto. Quindi in generale, come dicevo l'altra volta, l'unica certezza della nostra vita è che dobbiamo morire. E questo potrebbe accadere, diciamo, se guardiamo più o meno, tra oggi, e i prossimi, 80 anni, no, neanche, 60 anni, tra oggi e i prossimi 60 anni moriremo. In questo periodo, in questo periodo è assicurato, e questo potrebbe accadere qualsiasi giorno, no? Quindi non possiamo determinare né oggi né domani, sì oggi e domani, sì né oggi né domani noi se ne andremo di questa vita. Questo non lo possiamo determinare con certezza, okay? Però nel fondo nel nostro cuore, okay, siamo sicuri che domani ci siamo ancora, o che tra 10 anni ci siamo ancora, anzi tra 20 anni, 40 anni ci siamo ancora. Facciamo dei progetti addirittura su 30-40 anni. Okay? Facciamo per esempio una prova di questo e facciamo dei prestiti su 20-30 anni, no? Pensando di poter di essere lì, quindi ancora 20-30 anni. Questa è proprio la prova di quanto la nostra mente, anche se sappiamo che dobbiamo morire, non ci pensa, anzi si afferra alla permanenza. Okay? Quindi noi nel nostro, al fondo del cuore, no? Noi pensiamo che non moriremo domani, che domani non moriremo. E l'abbiamo visto, questo è l'ostacolo principale all'impegno nella pratica spirituale. Quindi questa meditazione ha come scopo di andare a, si dice frantumare, cioè indebolire questo concetto, no? Questa mente che si afferra così tanto alla permanenza, perché è un ostacolo principale al non impegnarsi nel Dharma. Ora abbiamo visto, se ci impegniamo è comunque inquinato con i pensieri di questa esistenza, quindi debole in termini di potere. Okay? Quindi pensando, avendo sempre in considerazione questo pensiero, io domani non morirò, continuiamo a farle delle preparazioni per dimorare in questa esistenza. Okay? E continuiamo sempre a accumulare, a ricercare cose. Per fare in modo per preparare questa esistenza, questa permanenza, questo permanere in questa vita. Okay? Quindi, come dicevo l'altra volta, no? È come quando siamo in viaggio, no? Quando siamo in viaggio, siete già fatto dei viaggi itineranti, sappiamo, no? Cioè, si sta un paio di giorni di qua, un paio di giorni di là. Quando arrivate in un posto che aveste, cioè, un posto dove dovete stare per 2 o 3 giorni, non è che incominciato a organizzare la stanza, a spostare i mobili, a comprare dei quadri per decorare la stanza, perché sapete che un paio di giorni ve ne andate. Okay? Quindi è la stessa cosa con questa vita, visto che noi siamo, è l'opposto, diciamo. Pensiamo che dimoriamo a lungo in questa vita, quindi tutto quello che facciamo è circondata nel preparare il nostro dimorare in questa esistenza. Quindi finché c'è questo concetto, non c'è spazio per qualcosa di superiore, qualcosa che va al di là di questa esistenza. Quindi, cioè, o le vite future, o il nirvana, la liberazione, o lo stato di Buddha, non c'è spazio. Okay? Quindi lo scopo è di indebolire questa mente. Quindi anche qui abbiamo, come dice, un triplice ragionamento. Okay? Il primo, dobbiamo vedere che in questo parte dell'universo, gli esseri umani che vivono in questa parte dell'universo, perché secondo il buddismo ci sono anche degli esseri umani in altre parti dell'universo, okay? In questa parte dell'universo comunque che viene chiamato Jambuvipa o il continente del sud, okay? Nel buddismo, la durata della vita è completamente incerta, nel senso che si può morire a ogni età. Invece c'è un'altra parte dell'universo dove gli esseri umani hanno una durata di vita determinata. Quindi questo si chiama Uttarakuru o il continente del nord. Okay? In questa sfera, in questa parte dell'universo, gli esseri, qualsiasi cosa che fanno, sono certi di non morire prima di aver raggiunto una certa età. Okay? È così. Invece qui no, qui il karma è diverso. Noi non abbiamo nessuna certezza sulla durata di questa vita. Infatti, ci sono delle persone che possiamo incontrare o vedere la mattina e la sera non ci sono più. Ci sono delle persone che vediamo la sera e la mattina non ci sono più, okay? È completamente incerto, no? Quindi certi esseri, e questo è importante che quando riflettete lo collegate alla vostra esperienza, ai vostri ricordi, ai vostre esperienze. Non lasciate le cose sulla carta, ok? Dovete sempre cercare di collegare, di fare il ponte tra l'insegnamento e la vostra esperienza e la vostra vita, che questo è importante. Dovete fare questo insegnamento che diventa vostro. Quindi certe persone, certi esseri muoiono nel grembo materno, ok? Certi esseri muoiono al momento della nascita, certi esseri muoiono giovani, bambini, giovani. Altri invece a uno stato più avanzato della vita. Certi muoiono giocando, certi muoiono lavorando, certi muoiono riposandosi. È completamente incerto, cioè le condizioni sono completamente incerte. Poi le persone ricche possono morire, cioè muoiono prima le persone povere, persone in grande salute muoiono anche prima, possono morire anche prima di quelli che hanno una salute molto precaria. Non c'è nessuna certezza rispetto al momento della nostra morte, nessuna. Ok? Quindi non possiamo con certezza dire domani ci sono ancora. Se ci pensate bene, se ci pensate bene, non lo potete dire con certezza. Cioè, non ve lo auguro, ok? Però stasera tornate a casa, utilizzate la macchina, cioè molte cose possono accadere. Io ho per esempio un'amica che è morta durante il suo sonno, non si è svegliata la mattina, cioè giovane, perché parlo di questo 10 anni fa, quindi è andata a letto, non si è mai svegliata, ok? Quindi è così. Quindi questa è la... quindi dobbiamo tenere in mente i casi che abbiamo visto, che abbiamo sentito. Che riguardano persone che non hanno attualizzato, che non hanno utilizzato completamente la forza vitale proiettata, la durata di vita proiettata. Pensate a questo, ok? Vedete che sono andati senza aver compiuto i loro desideri, i loro scopi, i loro obiettivi, ok? Che sono quindi andati dovuto a cause esterne o interne. E pensate, anch'io sono soggetto a quel tipo di morte, posso essere soggetto a quel tipo di morte. Questo è il metodo per indebolire quel tipo di mente. So che non è piacevole, però è necessario. È come la medicina, no? Quando siamo ammalati, la medicina fa sempre un po' schifo, no? Il gusto, eccetera, di queste cose. E qui è un po' uguale, no? Bisogna sopportare un piccolo sconforto per guadagnare una grande salute. Ok? Quindi queste cose all'inizio non sono mai piacevoli, però vedrete che più le contemplate, e più vi sembra così naturale, così salutaria la cosa. Quando contemplate queste cose, avete l'impressione di guadagnare un po' di salute. Dopo il secondo passo di questa suddivisione è il contemplare che le cause della morte sono numerose e che le cause della vita per mantenere la vita sono pochi. Quindi vediamo, possiamo morire dovuto a, allora si contempla il fatto che gli elementi possono causare la propria morte, no? Quindi ci sono queste varie catastrofi naturale, la terra, il fuoco, l'acqua, no? Ve ne passo, che possono causare diciamo, cioè, recidere la continuità di questa vita. Okay? Possiamo vedere anche, ci possiamo, in Italia siamo un po' protetti di questo, ma sono anche animali che potrebbero causare quel tipo di cose. Noi non abbiamo questo problema di bestie feroci in Italia, però ci sono i posti dove le persone devono anche lottare contro queste cose. Comunque, ok, quindi poi si guarda che viviamo anche all'interno di società molto violente, società molto violente, quindi c'è il terrorismo, cioè adesso in questo periodo, tutte queste cose, no? Non c'è certezza, anche le persone diventano così degenerate. Che per una centinaia di dollari, cioè di euro, sono pronti a uccidere. Anche questo accade ogni giorno nelle società moderne. Quindi, boh, vabbè, noi a Pomaia non è che c'è una delinquenza così pronunciata, però ci sono dei posti, e non così tanto lontano, okay, dove questa è l'esperienza di persone. Okay? Quindi le nostre società sono molto degenerate, sono molto violente. Quindi questo contribuisce anche alla separazione dell'apparenza di questa vita. Okay? Poi utilizziamo anche molte cose per facilitare questa esistenza. Di solito, quindi anche le cause che sembrano facilitare la vita possono diventare causa della morte, no? Abbiamo tutte queste catastrofi, i treni, gli accidenti di macchina, tutte queste cose, cioè, nessuno è al riparo. Quindi adesso io entro nella sezione dove vi devo fare l'elenco di tutte le cose, quindi è così, ok? Okay, quindi non c'è certezza su questi aspetti, anzi anche il proprio cibo, no? Il proprio cibo che normalmente serve a prolungare, cioè a fare in modo che il corpo dimora in buona salute, può anche cioè, girarci contro di noi, nel senso che se il cibo è avvariato, ci sono dei casi dove le persone muoiono di cibo avvariato, o anche in questi periodi. Abbiamo anche una degenerazione così tale, particolarmente rispetto alla carne, che è accaduto un po' di anni fa, che le persone mangiando della carne sono morte. Non so se è capitato in Italia, è capitato in Francia, o anche in Stati Uniti, okay? Mangiando questi hamburger, no, di carne un po' strana, sono morti bambini. Quindi il cibo non garantisce neanche più adesso il mantenimento della vita in salute, neanche più. Okay. Poi abbiamo anche le medicine. Medicine, abbiamo una fede completamente cieca nei dottori, okay? Ma è possibile che si sbagliano, perché sono degli esseri umani, ci danno le pastiglie sbagliate. Particolarmente per ciò che riguarda la pressione, medicine sulla pressione, tutte queste cose. Io, per esempio, ho la madre di un amico che curandosi, lei aveva il diabete, curandosi è caduto con medicine sbagliate, è caduto in un coma per molti, molti anni e non si è mai rimessa. Anche dopo si è uscita di questo coma, è rimasta sempre in uno stato di mente molto, molto degenerato, okay? E se n'è andato dopo pochi anni. Quindi semplicemente perché medicina sbagliata, e non in paesi del terzo mondo, cioè a Parigi. Quindi queste cose, nessuno è al riparo di queste cose. O pensiamo aver preso la medicina la mattina, okay? O pensiamo non averla presa e la prendiamo 2 volte. Ci sono delle medicine, prenderle 2 volte può essere molto pesante, particolarmente quando arriviamo a una certa età. Quindi tutte queste cose fanno parte della nostra realtà, non sono romanzi di fantascienza. Quindi anche o andiamo in ospedale, quante persone prendono delle infezioni in ospedale? Andiamo per una cosa minima, okay? E ritorniamo con batterio, con un'infezione, una cosa del genere, no? Cioè, capita. Quindi il corpo umano, è così che dobbiamo meditare, no? Questo è il terzo passo. Il corpo umano è molto debole, è molto fragile, è fragile come una bolla di sapone, come una bolla d'acqua, no? A water bubble, cioè una bolla di sapone, nel senso che il suo equilibrio è molto precario, molto molto precario, e addirittura. Perché pensiamo essere così robusti, no? Pensiamo ad avere un corpo molto robusto, possiamo fare un sacco di cose, sollevare dei pesi, ok? Però anche qualcosa che non è neanche percepibile all'occhio ci può mandare nell'altro mondo. Qualcosa che non è percepibile all'occhio. Sembriamo che siamo così forti, però infatti cioè, nei test dicono che a thorn, come si diceva? Thorn? Una spina. Una spina, uno spillo, okay, ci può uccidere. Quindi il corpo è qualcosa di molto fragile, basta che la temperatura scende da qualche gradi, e noi siamo a letto per 8 giorni, quindi è un equilibrio molto raro. Non soltanto, ma sì, analizziamo un po' che cos'è la morte. Okay? La morte è l'estinzione della forza vitale. Okay? Quindi la malattia che cos'è? La malattia è un livello molto, se guardiamo le cose di un certo punto di vista, è uno sbilancio dei vari elementi. Quindi il corpo umano è composto di vari elementi, cioè l'elemento terra, acqua, fuoco e vento. Okay? Quando questi elementi si sbilanciano, okay, ci sono dei sintomi, c'è una malattia che viene sperimentata, poi diagnosticata in un modo particolare, cioè da un nome, eccetera. Però all'inizio è uno sbilancio di questi elementi. Infatti abbiamo delle malattie derivate dall'elemento vento, malattie derivate dall'elemento acqua, dell'elemento fuoco, eccetera. Quindi lo sbilancio di questi elementi è una malattia. Che cos'è la morte? La morte è il bilancio che non può essere recuperato. Quando questo sbilancio degli elementi va avanti per troppo tempo, a un certo punto cioè, si muore. Quindi la morte che cos'è? È uno sbilancio degli elementi che non può essere recuperato. Ok? Ma quindi questo ci fa pensare che noi infatti viviamo proprio, cioè dimoriamo nelle condizioni della nostra propria morte. Ciò che ci compone sono proprio le condizioni che producono la nostra estinzione. Cioè il nostro corpo è composto da questi elementi. Sono esattamente questi elementi che una volta che si sbilanciano causano la morte. Quindi noi dimoriamo in questo stato. Infatti in certi testi vengono chiamati, c'è un'analogia, no? Dicono che questi quattro elementi sono simili a quattro serpenti velenosi molto aggressivi che sono rinchiusi in una borsa, ok? E cercano sempre di dominarci uno l'altro. E quando questi quattro serpenti sono tranquilli, dormono, questo è lo stato di salute, ok? Quindi se guardiamo, dopo se andiamo a, però se nel futuro avrete il tempo di analizzare un po' di più le cose, ma se guardiamo la natura del nostro corpo, se guardiamo anche da che cose hai causato, vediamo che la salute non è uno stato normale, non è uno stato normale. Lo stato più coerente con il nostro corpo, con ciò che produce il nostro, perché il nostro corpo è il prodotto delle nostre azioni, ok? Quindi tutte le nostre azioni sono compiute all'interno dell'ignoranza fondamentale, che è una distorsione della realtà, che motivano le vari atteggiamenti come la brama, l'avversione, tutte queste cose, ok? E comunque è immerso in queste attività mentali, certe volte comunque riusciamo a produrre delle azioni virtuose, però sono comunque contaminate perché c'è un fraintendimento della realtà e questo produce il corpo. Quindi vediamo che le cause che producono il corpo hanno proprio già un problema all'inizio, quindi il risultato, essendo in sintonia con la causa, necessariamente produce dei difetti, dei difetti di funzionamento, dei difetti di funzionamento, sì. Quindi comunque quello che volevo dire è che lo stato di salute, se guardiamo le cose in un certo modo, se guardiamo effettivamente come funziona il corpo, da che cosa è prodotto, eccetera, vediamo che la salute non è una cosa così scontata. Immaginate questi quattro serpenti che cercano a dominarci sempre uno o l'altro. E questa è la stessa cosa con questi quattro elementi, no? Questi quattro elementi, trovare un bilancio di questi quattro elementi è qualcosa di molto, molto difficile, che non accade così tanto. Ok, quindi sì, il corpo quindi è qualcosa di molto, molto fragile, molto sottile, no? Se guardiamo anche, è composto di tutti questi canali. Tutti questi canali, tutte queste cose, no? Basta che uno si ottura, sono delle cose molto sottili, no? Molto sottili a livello del cervello, eccetera. Basta che uno, cioè, scoppia, cioè, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, ossia, è finito. Finito. E poi si dorme, no? Si dorme, ma e lasciamo tutto questo priva di consapevolezza, no? Tutto funziona, fin d'ora, tutto funziona in un modo più o meno piuttosto bene, siamo ancora qui, però, lasciamole, non c'è nessuno, veramente che quando ci addormentiamo, no? E certe volte è quasi un miracolo svegliarci, eh? Infatti c'erano questi grandi maestri del passato, no? Questi grandi maestri Kadampa, i maestri Kadampa, loro avevano questa familiarità con questo processo, no? Con questa situazione, erano così meditati che la sera, no? Quando si addormentavano giravano la loro ciotola per dire, cioè, domani mattina non so se gli sveglio, okay? E quindi si addormentavano, assicurandosi che il processo dell'indormentarci era congruo nel produrre stati mentali virtuosi in caso si moriva durante il sonno, durante la notte. Perché il processo dell'indormentarci è simile al processo della morte, no? Molto simile. Quindi si dice che se ci vogliamo preparare al momento della morte, si dovrebbe addestrarci ogni volta che andiamo a letto, no? Quindi quando ci addormentiamo, cosa accade? Abbiamo accennato l'altra volta, no? Abbiamo i livelli di coscienze grossolane che si dissolvono nei livelli di coscienze molto, molto più sottili fino a una chiara luce, la chiara luce che è lo stato di coscienza il più sottile che possiamo sperimentare. E questa è la chiara luce del sonno. E dalla chiara luce del sonno dopo si manifesta uno stato di coscienza leggermente più grossolano che è la mente del sogno, eccetera, eccetera. Okay? Quindi il processo della morte è lo stesso. Al momento della morte le coscienze grossolane si dissolvono fino a sperimentare la chiara luce della morte. E una volta che la chiara luce della morte è stabilita, dopo c'è il processo inverso e si genera la mente dello stato intermedio, eccetera, eccetera. Okay? Quindi, avendo, potrete, cioè, l'ultimo, sa sappiamo, abbiamo visto, ne abbiamo parlato, non mi ricordo se sì, forse con voi, che un momento di coscienza è prodotto da un altro momento di coscienza. Okay? Quindi, tutti i fenomeni impermanenti dipendono da causa e condizione, e possiamo, le cose funzionanti, e possiamo isolare semplicemente, facciamo una divisione molto semplice, due condizioni. Abbiamo delle condizioni cooperanti, abbiamo delle cause sostanziali. La causa sostanziale ha una similarità di natura tra la causa e l'effetto. Per esempio, il vaso di argillo è prodotto dall'argilla, c'è una similarità di natura tra la causa e l'effetto. Poi ci sono delle cause cooperanti che entrano nella produzione di tale fenomeno, come nel caso del vaso di argilla abbiamo il vasaio, abbiamo la pittura, queste cose, no? Però la causa sostanziale è l'argilla. Quindi la mente è esattamente la stessa cosa, la mente è un fenomeno prodotto, dipende da causa e condizione, e dobbiamo, riflettendo, isolare delle condizioni cooperanti e una causa sostanziale. Okay? Quindi qui si entra nella discussione che penso è opportuna fare, visto che parliamo della morte, della rinascita, di queste cose, è opportuno cercare di vedere come, semplicemente, senza entrare nei dettagli, è comunque qualcosa che sulla quale dovete riflettere, e anche cercate di meditare sulla propria natura della mente, cercate di identificare la mente, no? La mente è un componente dell'individuo, è un componente della persona. Noi abbiamo una piuttosto bella identificazione di ciò che è l'aggregato della forma, il corpo, però la mente non ci interessa molto. Questo è molto triste perché è molto più importante del corpo, nel senso che il corpo viene distrutto alla fine di questa vita, invece la mente, in un certo modo, la sua continuità perdura. Quindi è importante cogliere questa opportunità, questa chiarezza mentale che abbiamo per cercare di capire che cos'è la mente, come funziona. Okay. Quindi la mente viene definito come un chiaro conoscitore, un chiaro conoscitore. Quindi la mente, ve lo dico, per eliminare il dubbio, la mente non è la persona, ok? che la mente non è persona. Quando si parla di mente nel buddismo non si parla di questo fenomeno permanente, di questa specie di sostanza dell'anima, okay? Che è l'anima, che infatti nel buddismo l'anima non esiste, c'è solo la coscienza mentale e il suo processo dinamico. Quindi quando si parla di rinascita non si parla di questa specie di sostanza che fuoriesce del corpo e che entra in un altro corpo. Questo non è assolutamente il modo in quale la rinascita viene spiegata nel buddismo. Infatti non c'è niente che passa da una vita all'altra, è tutto trasformazione, tutto un flusso continuo, è tutta trasformazione, non c'è niente di stabile, permanente, non c'è una sostanza che esce e che entra, c'è una continuità che si associa a degli elementi. Okay? Quindi è un chiaro conoscitore. Un conoscitore significa che riflette, ha la capacità di illuminare i fenomeni con le quali entra in contatto, quindi riflette e funziona esattamente come uno specchio. La cognizione, il processo di cognizione si fa tramite la mente che rifletta l'aspetto del fenomeno, o che prende l'aspetto, si genera nell'aspetto del fenomeno. Okay? È come, per esempio, abbiamo dell'argilla e mettiamo l'impronta della mano nell'argilla. L'argilla e la mente, la cognizione dell'oggetto si fa tramite la mente che si genera nell'aspetto dell'impronta della mente, e in questo modo la mente viene conosciuta. Questo è il modo in quale la cognizione viene effettuata. Comunque, quello che volevo dire è che è un chiaro conoscitore, quindi riflette come uno specchio, è chiaro. Chiaro significa che non ha le caratteristiche della materia. La mente non è materia, infatti la mente non può essere osservata al microscopo, perché non ha le caratteristiche della materia. Se avesse le caratteristiche della materia avrebbe una massa atomica, avrebbe caratteristiche di sagoma, colore, gusto eventualmente, odore eventualmente, okay? Avrebbe un peso, una massa, queste sono le caratteristiche di ciò che è atomicamente stabilito, okay? Quindi la mente, non avendo le caratteristiche della materia, non può essere prodotto dalla materia, nel senso non può derivare da un'operazione chimica, per esempio. La mente non può derivare da un'operazione chimica. Se la mente derivava da un'operazione chimica, avrebbe le caratteristiche degli atomi, avrebbe queste caratteristiche. Quindi o la mente avrebbe le caratteristiche di ciò che è atomicamente stabilito, quindi il contatto istruttivo, eccetera, o le caratteristiche della mente potrebbero essere rintracciate negli atomi. Normale, perché abbiamo questa similarità di causa, di similarità di natura tra l'effetto e la causa. Quindi che cosa produce un istante di me, ve la faccio breve, che cosa produce un istante di coscienza è l'impronta lasciata da un istante di coscienza precedente. Che nel senso che abbiamo uno schiocco di dita, e in questo schiocco di dita abbiamo 65 istanti di momenti che sono prodotti uno dopo l'altro. Okay? Quindi è importante incominciare a riflettere su queste cose, incominciare a identificare l'attività mentale. Identificare l'attività mentale come primo passo è identificare anche la mente attraverso la sua attività e la sua non attività. È importante cercare di entrare in contatto con la mente e vedere questo chiaro conoscitore, perché questo può essere osservato tramite il processo meditativo. Okay? Quindi la mente continua, va avanti. Questo modo, vedendo che un istante di coscienza è prodotto da un altro istante di coscienza, questo in quel modo possiamo piano piano a far entrare l'accettabilità delle vite passate, delle vite future. Perché esattamente come l'ultimo momento di coscienza di veglia produce il primo momento di coscienza di sonno, e l'ultimo momento di coscienza di sonno produce il primo momento di coscienza di veglia, l'ultimo momento di coscienza di questa vita produce il primo momento di coscienza della vita prossima. Ok? Dovuto aver questa continuità, constituita di istante di coscienza. Quindi, dal punto di vista del buddismo, la mente non ha inizio e non ha fine. Okay? Non c'è un inizio alla coscienza. Quindi dovete togliere la personificazione della coscienza, nel senso che quando dico che la coscienza non ha inizio, questo non significa che l'io non ha inizio, okay? Che io come persona non ho inizio. No, no, stiamo parlando della mente, la mente che è esattamente come gli atomi, l'acqua, i liquidi compongono questo corpo e questa persona, sono costituente della persona, esattamente c'è questo costituente coscienza o mente, però questo costituente ha come caratteristica non quello del contatto ostruttivo, ma quello dell'essere un chiaro conoscitore. Quando queste due si associano, c'è una persona. Persona. Ok, quindi la coscienza, abbiamo visto, no? Visto che l'ultimo momento di coscienza di veglia produce il primo me coscienza di sonno, e quindi per paragone, l'ultimo momento di coscienza di questa vita produce il primo momento di coscienza della vita futura, allora addormentarci in stati di mente virtuoso, al momento di addormentarci, invece di pensare ai problemi del lavoro o alle critiche che avete ricevuto o alle difficoltà, eccetera, o a stati di mente negative, che fa, e in questo modo fate che tutto il vostro sonno diventa anche agitato. Non dormite bene, non soltanto, ma sì, vi addormentate in stati di mente non virtuose, tutto il vostro sonno è profumata dalla non virtù. Se vi addormentate pensando ai vostri oggetti di attaccamento, di brama, o sì, o ai vostri oggetti di avversione, allora tutto il vostro sonno, cioè non so quanto dormite, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ore, tutto diventa un accumulo di non virtù a livello mentale, c'è cioè un accumulo di energia no, negativa a livello mentale. Quindi è molto importante cercare di addormentarci con stati di mente virtuosi. Pensate all'insegnamento, pensate a generare pensieri di altruismo, pensate all'amore, alla compassione, riflettete sulla natura ultima dei fenomeni, pensate a quello che volete. Però trovatevi in uno stato mentale positivo e virtuoso, perché in quel modo tutto il sonno, tutto il vostro sonno diventa anche utile per la vostra pratica, diventa anche un accumulo di virtù e in quel modo vi esercitate a affrontare il momento della morte, che è un momento che certo è non sapendo quando accade, quindi non c'è molto tempo da perdere. In quel modo arrivo. In quel modo, quando sì, vi addestrate a far questo quando vi addormentate, al momento della morte sarete in grado di fare la stessa cosa, quindi morire in uno stato di mente virtuoso e in quel modo andare a attivare le potenzialità virtuose che proiettano esperienze di vita fortunate. Perché lo vedremo. Vorrei fare anche questa cosa, forse non avremo tempo oggi, ma la prossima volta, di spiegare un po' come si muore e quello che possiamo fare a quel momento. C'era una domanda. Forse è una domanda non Attento. importante. Hai detto che la mente non ha odore e poi hai detto profumato di non virtù. Sì, è un'immagine. È un'analogia. Scusa. Sì. La mente. Cioè, quando ho detto che la mente non ha odore, eccetera, perché queste sono le caratteristiche di ciò che è atomicamente stabilito. Ciò che è atomicamente stabilito ha una massa, ha un gusto, ha un odore, ha un aspetto tangibile. Si prende per esempio il tavolo o la legna ha un odore, ha un gusto, ha un aspetto tangibile, okay? Perché è atomicamente stabilito. Quando dico che la mente è profumata, questa è un'analogia. Per illustrare che le nostre azioni che facciamo tramite il corpo, la parola e la mente, associate alle loro motivazioni, lasciano delle potenzialità sulla coscienza, sono delle potenzialità che vengono depositate sulla coscienza. Quindi sì, queste potenzialità sono negative, la mente si carica di potenzialità si carica di potenzialità negativa. Poi possiamo, sì, a livello anche una motivazione. Okay? La mente di per sé è eticamente neutra. Eticamente neutra, è un chiaro conoscitore, eticamente neutro. Okay? Però possiamo fare che questa mente diventa virtuosa o non virtuosa in dipendenza di fattori mentali che vogliamo manifestare. È questo che chiamo profumare, di fare in modo che la mente sia virtuosa o non virtuosa. In quel modo prende anche un colore da un certo punto di vista. Altre domande? Io sparo, vado avanti come un treno, quindi mi dovete fermare perché altrimenti sì, facciamo, vai. Abbiamo detto che non ha inizio la coscienza mentale e non ha fine. Non la coscienza mentale, No, la mente. la mente non ha inizio, ma ha una fine. No. E la coscienza di Buddha. Allora, c'è una fine alla mente oscurata, c'è alla fine alla mente limitata, oscurata, colma di ignoranza, eccetera, però la sua continuità non ha fine. Quindi passi da una mente, contaminata a una mente non contaminata. È quella mente che ci porta all'illuminazione, cioè la Questa mente mente, dell'illuminazione. questa mente che ci porta all'illuminazione è esattamente la mente che hai adesso. Quella sua continuità con la pratica del sentiero, no? Con la pratica del sentiero, questa mente si purifica, ok? E arriva uno stato dove la mente è completamente purificata. E lo stato di mente completamente purificato è lo stato di Buddha. Quindi è come abbiamo fatto l'analogia l'altra volta, no? Ti prendi un bicchiere d'acqua. L'acqua ha come natura limpidezza, chiarezza. Però quest'acqua, nel nostro caso, che è paragonato alla mente, è associato a del fango, sedimenti, eccetera. Quindi, anche se sì, la mente non ha mai perso la sua limpidezza, la sua chiarezza, momentaneamente è oscurata, è resa questa chiarezza e questa limpidezza della mente è resa non manifesta dalla presenza di elementi esterni. Ok? Quindi, per analogia, la mente è naturalmente pura, naturalmente libera di tutte queste attività come la brama, tutte quelle avversioni, queste cose. Queste sono adventizie, sono adventizie, dipendono da cause e condizioni. Se eliminiamo le cause e condizioni, queste possono essere eliminati perché non fanno, non entrano, non penetrano la natura della mente. Quindi possono essere eliminate e la mente può ritrovare la sua chiarezza, la sua limpidezza. Esattamente come se lasciamo questo bicchiere con il quale c'è il fango a riposare, a un certo punto tutto sedimenta e la mente rimanifesta la sua chiarezza che non ha mai persa, che è stata sempre lì. Quindi è quello che è molto importante, no? Possiamo eliminare tutte queste cose. Che ci danno fastidio, che ci creano difficoltà, sofferenza, senza, perché non fanno parte della natura della mente. Fanno parte della natura della mente. Bene? Spieghi l'esempio dell'impronta sull'argilla. Ok. Nelle scuole buddiste, all'eccezione di una scuola filosofica vaibhashika, tutte le altre scuole, quando presentano il processo di cognizione, e quindi questo si basa sulle analisi e le scritture di Dharmakirti, per quello che sono interessate, Dharmakirti, e particolarmente i suoi trattati sulla cognizione valida, che si chiama il Pramanavartika, quindi sono questi trattati dell'India antica, dove ha presentato la cognizione. Allora, la mente conosce tramite il riflettere, funziona. Tieni in presente l'immagine dello specchio, ok? Quindi la mente conosce riflettendo ciò che incontra. Quindi la cognizione non è che la mente si muove verso l'oggetto, non è così che si fa la cognizione, ma abbiamo l'oggetto che in un certo modo proietta la sua immagine sulla mente. Quando la mente dopo, quindi, prende questo riflesso dell'oggetto, questa è la cognizione. Questa è la cognizione. Quindi, per illustrare, ho preso quello dell'argilla, no? L'argilla è la mente, ok? Vuoi conoscere un fenomeno che sia la mano. Come accade questa percezione, questa esperienza della mano? Cioè, la mano, cioè, va a proiettare la sua impronta, un suo aspetto sull'argilla, sulla mente, ok? E quindi questo si chiama un aspetto soggettivo, eh? Un aspetto soggettivo. E quindi la mente in un certo modo si genera nell'aspetto, o coglie o prende l'aspetto della mano, esattamente come l'argillo ha preso l'aspetto dell'impronta della mano. Questo è il modo in cui la cognizione viene fatta. Okay? Quindi si parla di un aspetto soggettivo, un aspetto senza entrare nei dettagli, non è necessario. Okay? Queste sono le cose un po' complicate che richiedono un po' più di elaborazione, però abbiamo messo un'impronta. Sì. Però tutto questo, come per ora ho capito, mi pare quando mi viene descritto, è un processo meccanico passivo, non è un processo attivo. Per cui una cosa così non mi pare non riesca a spiegare dal punto di vista logico l'evoluzione, perché l'evoluzione implica altre cose, implica delle novità, implica, e come non spiega il fatto che il pensiero, ad esempio, umano, è evoluto, non è che Certo, sia sempre lì. Non è certo. che ripete Ah no, esattamente. ma cioè, non c'è contraddizione. Adesso io sto soltanto spiegato come una coscienza visiva coglie il suo, realizza il suo oggetto. Semplicemente questo. Per esempio, come il colore blu viene percepito. Il colore blu viene percepito tramite la mente che coglie, che prende, che si genera nell'entità del blu. L'unica cosa che ho spiegato è a livello di una coscienza sensoriale, cioè il meccanismo, questo si chiama una condizione di oggetto di osservazione. Quindi per far sorgere un istante di coscienza abbiamo bisogno di un oggetto di osservazione, di un potere sensoriale e di un istante di mente precedente. Quando queste condizioni si aggregano, c'è la generazione di un istante di coscienza. Tutto, cioè, è una cosa molto di base. Questo non è in contraddizione con l'intelligenza, con l'elaborazione e con l'evoluzione, anzi, favorisce l'evoluzione. Se questo non era possibile, l'evoluzione non era possibile. Sì. Ok. Non ho capito bene la differenza fra mente e coscienza. Poi volevo sapere, faccio un altro. Ok, Volevo allora. sapere se c'è una mente o una coscienza universale. Ok, allora la mente è una coscienza universale? Subito no. Abbiamo le nostre continuità, le nostre continuità individuali, ok? E alla fine, cosa dice lo stato di Buddha? Tutte queste coscienze non è che si miscolano in una coscienza cosmica, no, questo è un concetto che c'è nell'induismo. Buddismo no, ciascuno ha la sua continuità individuale, ok? E la mantiene. Allora, la mente può manifestare, di solito in generale. La mente si divide in due, coscienza principale e fattori mentali. Okay? Quindi le coscienze principali sono sei. Abbiamo cinque coscienze sensoriali e una coscienza mentale. Queste sono le divisioni della mente. Quindi la mente può generarsi nell'entità di queste varie coscienze. Dipende da queste condizioni cooperante. Per esempio, se abbiamo un oggetto visivo o un colore, una sagoma, un potere sensoriale visivo, abbiamo un istante di coscienza visiva. Se invece c'è un suono che entra in contatto con il potere uditivo, o il potere uditivo, abbiamo una coscienza uditiva. E poi abbiamo la coscienza mentale che ha come oggetti i concetti. È una presentazione della mente. E poi abbiamo i fattori mentali. I fattori mentali sono varie liste, in generale. Vengono presentate 51 per procedere tramite un studio particolare della mente, però non è esaustivo. Okay? Allora, la differenza tra la mente e i fattori mentali è che la mente coglie l'entità dell'oggetto, coglie l'entità principale, e i fattori mentali impegnano le caratteristiche individuali dell'oggetto. Per esempio, l'attaccamento è un fattore mentale, la compassione è un fattore mentale. Allora, abbiamo dei fattori mentali onnipresenti, dei fattori mentali determinanti, abbiamo fattori mentali virtuosi, non virtuosi, neutri. Okay. Comunque, la mente principale è sempre abbiamo la mente principale, e nel suo seguito, nel suo entourage, seguito, ci sono sempre dei fattori mentali. Per esempio la sensazione è un fattore mentale, il contatto è un fattore, l'intenzione è un fattore mentale. Quindi per avere un momento, al minimo abbiamo questi cinque fattori onnipresenti. Quindi abbiamo una coscienza visiva, nella coscienza visiva nel suo seguito c'è il contatto, c'è l'impegno mentale, c'è l'intenzione, c'è la sensazione, c'è il contatto. C'è quello già detto. Senza, se ne manca uno, l'esperienza dell'oggetto non accade. Sì. La mente come sede. La mente come? Come sede, dove la mettiamo? Come se. Sede, il posto. Il posto. Ah, che sede. Allora, la mente pervade il corpo. Questa è la presentazione che vi faccio adesso. La mente pervade il corpo. Perché? Per esempio, qui c'è la sensazione. Quindi la mente è presente. Perché la sensazione è un fattore mentale. E qui c'è una mente, una coscienza principale che è una coscienza tattile. Sì, c'è una coscienza tattile. Okay. Quindi la mente pervade il corpo. Ma ci sono degli organi dove si sviluppa di più? Per esempio, dicono che noi come esseri abbiamo sia nel cervello sia nell'intestino la possibilità di registrare emozioni. Quindi la mente ha questa sede maggiormente, oppure, perché quello che spiegava lei sono i sensori, no, che stanno in tutti i vari punti, ma dopo questa carica emozionale che costituisce la mente e la coscienza ha un posto dove si disloca e magari crea scompiglio se è mal organizzata. Questo diventa molto complicato e anche al di là delle mie capacità di risposte e di analisi. Quindi io condivido quello che ho capito. Okay? Quindi il fatto che la mente sia in grado di avere dei carichi emozionali risentiti a certe parti del cuore, a certe parti del corpo, per esempio anche a livello del cuore, no? Questo dipende di quello che vengono chiamati i vari chakra, le ruote o sì, queste centri energetiche. Quindi a un livello più grossolano corrispondono al sistema nervoso. Il sistema nervoso. A un livello più sottile abbiamo questa rete di canali molto sottile attraverso i quali delle energie sottili circolano. Quindi abbiamo dei nodi, sono dei nodi, e quindi in questi posti sono dei centri dove vengono risentite certe emozioni, ok? È chiaro che la mente è presente anche in queste varie cose, però diciamo il fatto che uno risente delle emozioni in certi posti dipende perché ci sono questi centri energetici a questi vari posti. Quindi dopo ci sono 7, 12, 15, dipendono dalle varie, però questo diventa una cosa alla quale non ho padronanza su queste cose. Non è che ho padronanza su molte cose, però questo ancora di meno. Grazie. Prego. Sì. Se non c'è una coscienza universale, solo una coscienza individuale, come può una mente dell'universale beneficiare tutti gli esseri senzienti? Ok. Allora, quando dico questa, la domanda che ha fatto questa persona, parlava di una mente universale, significa una mente che è condivisa da tutti, giusto? Un'unica mente condivisa da tutti, ok? Quindi questo non c'è, c'è una continuità individuale. Questa continuità individuale può invece di, allora, con l'addestramento, invece di essere sempre centrata sulla propria persona, okay? Può essere espansa a prendere in considerazione gli altri esseri. Okay? Quindi c'è lo sviluppo di una mente altruistica che prende in considerazione gli altri esseri senzienti. E si può arrivare anche a un livello dove gli altri vengono percepiti come più importanti di se stesso. Questo è tutto l'addestramento, ci sono delle tecniche per arrivare a delle riflessioni per arrivare a questi livelli. Quindi la mente può arrivare a avere come oggetto oggetto di attenzione gli altri, ok? Non soltanto, ma la mente può anche essere, le qualità di questa mente possono essere sviluppate in modo che diventa effettivamente in grado di prendersi cura degli altri. Cioè, adesso la nostra mente è molto, cioè uno stato, dicevo l'altra volta, embrionario, sottosviluppata. Allora, la coscienza mentale è sottosviluppata. Allora, le coscienze sensoriali sono super sviluppate, le coscienze sensoriali sono molto stimolate, ricerchiamo molto il contatto con i vari oggetti sensoriali, però la coscienza mentale in termini di riflessione, in termini di penetrazione nella realtà, in termini delle sue attitudini di altruismo, di amore, di compassione, questo sono stato molto, sì, molto, molto iniziale. Tutto questo può essere sviluppato, quindi le qualità della mente, per esempio adesso abbiamo poca concentrazione, no? Possiamo mantenere una concentrazione solo per una buona concentrazione solo per pochi secondi, pochi minuti per le persone che si addestrano e che fanno dei belli sforzi, però questo può essere sviluppato fino a dei livelli straordinari di concentrazione. La concentrazione si sviluppando, gli stati di mente che sono sopportati da questa concentrazione automaticamente diventano più sottili, quindi una percezione, delle percezioni extrasensoriali sono prodotti secondari di questa concentrazione. Ecco perché, per esempio, degli esseri e delle guide spirituali completamente qualificate, di questi lama, eccetera, dovuto ad aver attualizzato delle concentrazioni effettive, quindi sono delle misure per questo, hanno, guadagnano delle qualità, sono in grado di veramente aiutare le persone a livello individuale, non più dare insegnamenti, spiegazioni in generale, ma proprio mirate alle persone, perché riescono a percepire le predisposizioni della persona, il suo dinamiche, quindi danno istruzioni veramente adeguate all'individuo. Questo sono derivati, prodotti derivati dalla concentrazione. Quindi la mente non essendo materia, può essere sviluppata quasi all'infinito. Invece a livello della materia, il corpo, vi potete esercitare, potete saltare in alto fino a un certo livello, però al di là di questo non si fa più niente. Invece la mente non è limitata dalla materia, quindi il suo potenziale è straordinario. Incontrare delle persone che hanno attualizzato un certo potenziale di questa mente è un grande fonte di ispirazione. Okay? Quindi, cioè, sì. Non so se ho risposto. Ok. Altre cose? Forse una domanda. Attento. Come facciamo a essere individuali se siamo interdipendenti? Cioè, come? Come facciamo a essere cioè una mente sola, però siamo interdipendenti? Cioè individuale. Beh. Una mente individuale. Una coscienza. Non ho capito. Cioè, nel senso, siamo interdipendenti. In che modo? In che modo? Perché siamo comunque indipendenti in qualche modo. No, da quello non, che siamo, non siamo indipendenti a nessun livello. Insomma, siamo individuali, siamo questo è, siamo, va bene, il fatto che hai la tua storia, che hai la tua esperienza, questo costituisce la tua personalità. Questa cosa, ciascuno avendo le sue esperienze, le sue predisposizioni, abbiamo tutti una personalità, ma anche questa personalità è un sorgere dipendente. Cioè questa personalità che tu hai, il tuo modo di funzionare adesso, no? È il risultato delle tue esperienze. Quindi vedi anche questo, anche la tua indipendenza è qualcosa di dipendente. Non c'è niente di indipendente, niente, zero. Un fenomeno indipendente non esiste. Sono i fenomeni dipendono, al minimo dipendono da cause e condizioni. Questo al minimo dipendono da cause e condizioni. Poi dipendono dalle loro, per esistere dipendono dalle loro parti costitutive. Quindi non hanno un'esistenza autonoma. È un altro livello, dipendono dall'imputazione mentale. Questo non ne parliamo. Okay. Però l'ho buttato lì. Ok. Una domanda. Sì. Questo percorso di consapevolezza della morte, quindi di avvicinamento a certi concetti, a certe conoscenze, oltre che attraverso un percorso come questo di riflessione, di meditazione e di studio, può avvenire anche nel concreto attraverso esperienze successive reali di essere stati vicino alla morte? Può. Nel senso che una persona che è dovuta a eventi, quindi passa vicino a questa, a questa cosa, certo che questo può generare una certa consapevolezza nel continuum di questa persona, anzi sicuramente genera una certa consapevolezza, però non sono sicuro che sia la stessa consapevolezza che quella che parliamo di qua. Che parliamo qui. Sì, perché in generale una persona che ha la consapevolezza della morte, cosa fa? Invece di pensare alle vite future, anzi, si ributta ancora di più in questa vita, perché è passato a poco, quindi bisogna vivere. Quindi, di solito potrebbe avere anche l'effetto opposto, quindi questo è veramente particolare e mirato. Però non necessariamente. Quindi entriamo nella... Ok, quindi alla fine di questa triplice contemplazione, quindi il fatto che il momento della morte è incerto, nel senso che la vita di esseri umani qui possono morire a ogni istante, non c'è regola. I più anziani non è che necessariamente muoiono prima, ok? Non necessariamente, possiamo morire a ogni... non c'è certezza rispetto a questa cosa. Il secondo, abbiamo visto che ci sono più condizioni per decidere l'esistenza che per prolungare, proteggere questa vita. E il terzo, abbiamo visto che il corpo è molto debole, molto fragile, è un equilibrio molto fragile. Alla fine di questa triplice contemplazione dovrebbe generare l'attitudine mentale che devo praticare il Dharma adesso. Questa è la conclusione alla quale si raggiunge al seguito di questa triplice contemplazione. Quindi abbiamo visto, no? Nella prima devo praticare il Dharma, okay? E adesso abbiamo devo praticare il Dharma adesso e in un modo puro, adesso. Perché il momento della morte è incerto. Quindi questo dovrebbe essere qualcosa che viene generato proprio dal fondo del cuore, proprio qualcosa, questa contemplazione è molto potente. Provate a farlo, vedrai che scuota proprio i fondamenti, cioè il modo di pensare alla vita. Poi ci sarebbe, quindi questa contemplazione dell'incertezza del momento della morte è estremamente importante, Quindi la Mazzongava dice che dobbiamo fare molto sforzo in questa contemplazione, perché questa è l'unica tipo di coscienza, di comprensione, che è in grado di redirect, come si dice redirect? Ridirigere la mente ridirigere la mente che adesso è completamente assorbita nell'esperienza di questa vita. Quindi questa consapevolezza è in grado di riavvaluare le proprie rivalutare le proprie priorità. Okay. O ciò che è importante. E il terzo aspetto di questa contemplazione è il contemplare che al momento della morte niente di aiuto all'eccezione della pratica spirituale o del Dharma in questo contesto, visto che siamo nel fondo del buddismo. Okay? Quindi anche qui abbiamo tre punti da vedere. La prima è di vedere che gli amici non sono di nessun aiuto. Di nessun aiuto. Qualsiasi è il numero dei vostri amici, okay? Quanti cari siete ai loro occhi, stessa cosa per i parenti, al momento della morte non vi possono aiutare, nel senso che non vi possono trattenere in questa vita. Dovete andare e le dovete lasciare dietro. Una storia diversa da questa è impossibile. Non ne possiamo prenderle con noi e non possiamo, e non possono impedire che questo avanti accade. Quindi in generale e possono anche, cioè, motivati ovviamente del loro amore, del loro affetto per voi, possono anche creare delle condizioni sfavorevoli per voi. Perché invece, quando tutte queste persone sono intorno a noi, no? Piangendo, eccetera, eccetera, e questo ha come, questo disturba molto la mente della persona che si sta andando. Quindi questa è la cosa, è un servizio di non rendere a una persona che sta vicino al momento della morte, di essere agitato, di piangere, di lamentarsi ai suoi intorni, intorno a lui, perché questo lo riempie anche di tristezza, eccetera, invece di far partirlo con una mente serena e quindi attivare delle impronte buone, no? Parte in un modo non ve lo consiglio. Quindi mantenere intorno una persona che se ne sta andando, mantenere una mente serena e aiutarlo, e lo vedremo la prossima volta che ci vediamo, ma aiutarlo a mantenere una mente virtuosa e serena, questa è una cosa fondamentale. Quindi comunque i vostri amici, i vostri parenti non le potete portare con voi, quindi qualsiasi vostro livello di attaccamento, di affetto, incontro verso loro, non possono far niente. Possono far niente, anzi possono anche diventare una causa di problemi. Le nostre risorse, tutta la nostra vita ce la vogliamo per accumulare delle cose, accumuliamo le macchine, accumuliamo i vestiti, accumuliamo le scarpe, accumuliamo le macchine, le case, alla fine di questa vita non vi portate un atomo con voi. Tutto quello per quale avete lavorato tutta la vostra vita lo lasciate dietro. Tutto. Non c'è niente che portate con voi. Quindi anche qui dovete pensare e vedere se effettivamente è un investimento a così lungo termine. Quindi non vi portate una singola particella con voi nella vita futura. Anzi, tutte queste cose sono una fonte di problemi, perché vi dovete separare di tutte queste cose, vi dovete separare di tutti questi oggetti di attaccamento, tutte queste cose per le quali avete così lavorato tanto, tanto e così duro per ottenere le cose, perché lavoriamo duro per ottenere le cose. Quindi possono essere una fonte di problema, perché non riusciamo a lasciare andare. Okay? Non riusciamo a lasciare andare. Quindi questo bisogna pensare. Io non sto facendo il vostro processo, assolutamente, perché sono esattamente nella stessa condizione. Condivido solo quello che ho imparato e che al mio livello cerco di mettere anche di applicare. Okay? Quindi vedete questo come una condivisione. Non è che siete così, io non lo sono, assolutamente no. Okay? Ho i stessi problemi. Terza cosa è il proprio corpo. Il proprio corpo lo lasciamo indietro. Questa cosa con la quale siamo arrivati in questo mondo la dobbiamo lasciare. Questo supporto, che è il nostro oggetto di attaccamento supremo, per quale più o meno siamo completamente lo schiavo del corpo, no? Siamo lo schiavo del corpo. Dobbiamo lavorare duro per proteggerlo dal caldo, dal freddo, per nutrirlo, per vestirlo. Poi i vestiti devono essere di vari colori, confortevole, soffice, quindi praticamente questo è il lavoro in più. Il corpo fatighiamo anche per mantenerlo in linea, in aspetto, quindi le varie dieta, esercizi, eccetera, eccetera. Quindi il corpo va bene a fare tutte queste cose per mantenerlo in salute, perché è utile avere il corpo in salute, no? Però sapete che al minimo lo stesso sforzo dovete mettere sulla mente. Facciamo così tanto attento a cosa mangiamo, eccetera. Io ho degli amici, certe volte quando vado in Francia e faccio la spesa con loro, cioè, è quasi quasi imparano a memoria le etichette. Sono così concentrate quando leggono le etichette, con la sensazione che le imparano da memoria. Quindi questo va bene. Però dall'altro punto, dall'altro lato, tutto, cioè, nutriscono la loro mente con della spazzatura, nel senso che non fanno assolutamente a niente al loro modo di pensare, di concettualizzare, tutte queste cose. E questo è molto importante, molto importante. Quindi prendersi cura del corpo va bene, perché dobbiamo cercare di avere una vita lunga, anche se non lo sappiamo se accadrà sta cosa, eh? Dobbiamo anche fare attento alla propria mente. Perché? Perché il corpo è un investimento a perdita. Lo lasciamo dietro, non possiamo evitare il fatto che si disintegra, che i vari organi crollano uno dopo l'altro, quindi sofferenza viene generata. Quindi questo non lo possiamo evitare. Invece possiamo evitare che la mente scende verso il basso, possiamo evitare che la mente diventi una fonte di sofferenza. Questo lo possiamo fare. Non possiamo fare in modo che il corpo sia una fonte di felicità duratura. Questo non possiamo fare. Non lo possiamo fare. Quindi, cerchiamo di avere almeno la stessa attenzione per il corpo sulla mente. Almeno lo stesso. Così vediamo tutto il tempo che passiamo a curare il corpo. È incredibile. È incredibile. Penso che passiamo nella sala da bagno, queste cose, tutte le cose che si compriamo per i capelli, c'è il shampoo, c'è il dopo shampoo, c'è il condizionatore, c'è tutte queste cose, c'è il profumo di qua, il profumo di là, c'è i varie cose, però la mente non niente attenzione. Questo ve lo dico, è un investimento a perdita, perché alla fine il corpo lo lasciamo dietro, invece la mente va avanti. E va avanti con le predisposizioni che abbiamo messo su. Okay? Quindi bisogna riflettere su questa cosa. Quindi alla fine di questa triplice contemplazione, quindi gli amici, i parenti, le risorse, i possedimenti e il proprio corpo, si dovrebbe generare il pensiero che solo la pratica spirituale è di beneficio. Quindi dobbiamo praticare in un modo puro, perché al momento della morte solo questo è di aiuto, è di aiuto. E vi ripeto, l'unica certezza, tramite tutti i vari progetti e piani che elaboriamo di vita, l'unico che è sicuro è quello della morte. Tutti gli altri sono nello spazio. E anzi, più abbiamo progetti, più abbiamo piani, più abbiamo fonte di insoddisfazione. Perché in generale i propri progetti, non c'è poche cose che accadono esattamente come le vogliamo nella vita. Non so se avete notato, ma pochi. Quindi sì, cerchiamo di mettere la nostra attenzione. Abbiamo un potenziale straordinario, no? Abbiamo questa preziosa rinascita umana dotata dei 18 attributi. Abbiamo incontrato questi insegnamenti che ci permettono, che sia un sentiero autentico, puro, che è un lineaggio ininterrotto, ok? Siamo in un paese molto fortunato, perché ci sono queste varie libertà che abbiamo. Abbiamo libertà di praticare, di filosofia che vogliamo, cioè in certi paesi non hanno queste libertà. Cioè, noi abbiamo queste libertà, siamo più o meno in buona salute, siamo confortevole, non manchiamo di niente, quindi cerchiamo di prendere queste condizioni che abbiamo e per utilizzarla per qualcosa che è di lunga durata e che veramente ci porta a felicità. Vedremo più avanti, quando passeremo agli stadi di contemplazione dell'essere del livello intermedio, che comunque tutte le cose che ricerchiamo, tutti i supporti sulle quali noi ricerchiamo la felicità non funzionano, altrimenti non sarete qui stasera. Il fatto che siete qui è la prova che i nostri vari supporti sulle quali di solito ricerchiamo la felicità ci lasciano in un certo modo insoddisfatti. Quindi lo vedremo, cercheremo di analizzare queste cose più avanti e di quindi di cercare di far emergere dei punti di comprensione abbastanza precisi e sottili su queste varie cose. Ok? Quindi dovremo cercare di produrre, di attualizzare una felicità duratura, okay? Non l'essere soddisfatto con delle piccole esperienze impermanente, breve, ma abbiamo la, perché possiamo fare molto di meno. Se non avevamo il potenziale di fare molto di meno, allora cioè, questo discorso non avrebbe neanche funzione, non avrebbe anche senso. Però abbiamo una possibilità di veramente far di alzarci a un livello di felicità molto raffinato, e che non dipende da condizioni esterne, che non si appoggia su situazione, persone, possedimenti. Cioè, la mente può diventare una fonte di felicità in se stesso, cioè, e per se stesso, e questa mente può anche diventare una fonte di benessere per gli altri. E questo è straordinario, no? Quindi abbiamo questo potenziale, dobbiamo cercare di attualizzarlo, o di fare in modo che di farlo nascere, di produrlo piano piano. Okay? Quindi per noi principianti due contemplazioni sono molto importanti, lo ripeto: la contemplazione sulla preziosa rinascita umana e le tre divisioni, okay? E questa contemplazione sulla morte e l'impermanenza, questa contemplazione di 9 cicli con le sue tre divisioni. Quindi si dovrebbe associare queste due, perché questo permette di estrarre la mente dell'apparenza di questa vita e girarla verso qualcosa di più elevato, semplicemente perché è uno spreco, è uno spreco da un certo punto di vista. Quindi se vogliamo essere felici in questa vita esclusivamente, allora dobbiamo generare un tipo di comportamento che è almeno uguale in termini di qualità e di abilità a quello degli animali. Almeno. Perché? Guardate gli animali. Gli animali sono in grado di attualizzare felicità. Noi non siamo in grado di attualizzarla in questa vita. Gli animali sono soddisfatti con poche cose: hanno un po' di cibo, hanno un posto confortevole al caldo, al riparo dell'umidità, e sono contenti, tranquilli, contenti. Noi siamo degli esseri molto più complicati. Qui la nostra felicità è qualcosa dovuta al fatto che ci perdiamo in un sacco di concettualizzazione e di sovraimposizione. Ci perdiamo e diventa molto difficile di ottenere la soddisfazione. Però la soddisfazione di solito sono cose semplici, però la nostra mente è così complicata che diventa molto difficile per noi di essere contenti e felici. Okay? Invece gli animali, da questo punto di vista, sono molto più bravi di noi, molto più abili. Cibo, un posto al secco, riparo del freddo e del caldo, e sono contenti. Noi, per noi non è il caso. Quindi questa consapevolezza, no, della morte è qualcosa di molto abbastanza difficile da attualizzare. Quindi si dovrebbe lavorare a questo, perché questo è il fondamento del sentiero. Se non riusciamo a estirpare la mente dell'apparenza di questa vita, non avremo mai la possibilità di generare l'energia, di produrre l'energia che ci vuole per attualizzare i vari stadi del sentiero. Okay. Quindi la Madhyama Kama dice che ci dovremmo meditare ancora finché abbiamo girato la mente dell'attività triviale di questa vita. Questo non significa che dobbiamo smettere di lavorare, dobbiamo smettere di avere una famiglia, di queste cose. Questo no, questo è necessario, lavorare per mangiare, eccetera. È necessario, abbiamo delle responsabilità, avete delle famiglie, eccetera. Questo non dovete assolutamente, non è in contraddizione. Tutto è l'attività triviale che sono intorno. tutte le ricerche triviali che sono intorno, che dobbiamo modificare. Ok, quindi abbiamo finito il come sviluppare la consapevolezza della morte, ok? Della morte dell'impermanenza. La prossima volta che ci vediamo brevemente faremo qualcosa su come si muore, ok? Cosa si può eventualmente fare al momento della morte per fare in modo che le cose siano di... Posso una cosa? Vai. Ci fai una meditazione guidata sulla morte? Una volta, magari la prossima volta, insomma. Allora, di solito le meditazioni le avete... sono tutte le mattine. Ah, ok. Tutte le mattine... In un esterno, non lo so. Ok, tutte le mattine si venite e avete le meditazioni qui. La meditazione è esattamente... Prendete il testo, ve lo leggete, perché la meditazione guidata... è qualcosa che ho poco fede nella meditazione guidata. Mi spiego. Perché nel caso della meditazione guidata ce n'è uno solo che sta meditando, quello che sta guidando. Gli altri ascoltano. Invece la meditazione è un'analisi. Quindi dovete... E poi quello che dico io durante la meditazione sono gli argomenti che mi colpiscono. Ma gli argomenti che utilizzano, forse per la vostra mente dovete utilizzare altri esempi, altre cose. Quindi meditazione sulla morte, meditazione guidata in generale, io le vedo da un occhio molto critico, perché dobbiamo diventare indipendenti rispetto a queste cose. Quindi vi posso spiegare come fare la meditazione, possiamo parlare, vi presento la meditazione in 10 minuti, e poi la facciamo in silenzio, ma non guido passo per passo, perché questo non sono mai stato abituato in questo modo. Io mi ricordo quando mio maestro faceva il ritiro di meditazione con i studenti, lui parlava per 15-20 minuti e dopo lui presentava l'argomento e poi, non so se ti ricordi, no? E poi si meditava in silenzio su questi vari aspetti. Quindi la meditazione guidata, vi dico, c'è due pericoli. Uno è che dimoriamo dipendente da qualcuno che ci spiega come fare le cose, e questo no, questo lo vogliamo evitare. E la seconda è che ce n'è uno solo che sta meditando, quello che sta riflettendo, che trova gli argomenti, gli altri ascoltano. Quindi non dico che non c'è un beneficio, però possiamo far meglio di questo. Quindi il modo di meditare è esattamente quello che vi ho detto fino adesso, all'eccezione dei vari discorsi paralleli, la contemplazione in 9 cicli. Cioè, meditare, che cos'è meditare? Meditare non è che dovete mettervi le gambe incrociate, eccetera, no? Cioè, prendete una posizione confortevole, la schiena dritta, vi seduti anche su una poltrona, prendete il testo, leggete un paragrafo e ci pensate. Cercate di trovare gli esempi, cercare di verificare questa cosa. Vedete, riflettete, ha un senso, no? Quindi ci riflettete, a un certo punto, all'inizio tutte queste cose sono molto aride, è molto secco, è difficile di generare una sensazione, ok? Quindi la contemplazione va fatta, non prendete la cosa e poi niente accade, quindi lasciate. Queste cose vanno fatte ancora, piano piano la mente incomincia a diventare permeabile a questo insegnamento, piano piano. E quindi a un certo punto le sensazioni sorgono, cioè queste frasi incomincia a colpirvi. Poi aggiungete anche delle riflessioni personali, degli esempi personali, e a un certo punto una sensazione sorge. Questo è l'oggetto di meditazione. Quindi cioè, la meditazione è in due parti, no? C'è un processo analitico, quindi potete prendere un paragrafo, leggere il paragrafo, riflettere, e poi una volta che c'è una comprensione che sorge, o una volta che c'è una sensazione su un argomento, vi fermate e cercate di mantenere questo. A questo punto smettete di analizzare e utilizzate la concentrazione per mantenere questa cosa il più lungo possibile, manifesta la vostra mente. È così che si fa il processo di trasformazione. Poi, ovviamente, la concentrazione è così debole che dopo un paio di secondi, 7-8 secondi, boom, già la mente parte verso un altro oggetto o semplicemente questa sensazione scompare. Okay? Quindi riprendete il testo, rileggete, rifate esattamente la stessa contemplazione che ha fatto sorgere questa sensazione e poi ci dimorate dentro. Si riperde, si rifà di nuovo e si dimora dentro. È così, non c'è un altro modo di meditare. Quindi ha due aspetti, analisi e poi la concentrazione. Okay? Quindi al nostro livello quello che è il più importante è l'analisi. Perché dobbiamo eliminare concezioni erronee. Dobbiamo generare una comprensione dell'insegnamento. La comprensione sorge dall'analisi, dal riflettere. Quindi leggere un libro può essere una meditazione, è una meditazione analitica. Leggete una spiegazione sulle quattro nobili verità, è una meditazione sulle quattro nobili verità. La meditazione non è solo essere boom, focalizzati in un punto per 4 ore, senza pensare. Anzi, al nostro livello abbiamo bisogno di pensare. Abbiamo bisogno di pensare, è molto importante la riflessione. Quindi non cercate di spegnere l'attività concettuale che produce qualcosa, che produce comprensione, che produce saggezza, perché ne abbiamo bisogno e ai nostri livelli è la cosa la più importante. Il cercare di bloccare l'attività concettuale o la riflessione all'inizio è un errore. È un errore perché non siamo così intelligenti, quindi a bloccare lo sviluppo della mente, no, non adesso. Okay? Dopo ci sono stadi dove è importante per generare delle comprensioni dirette delle cose, allora i stadi di concentrazione devono essere attualizzati. Però all'inizio comunque dobbiamo analizzare, perché comunque questi stadi di concentrazione più elevati possono essere attualizzati solo quando la mente è stata a già un certo livello ben pacificata da che cosa? Dalla saggezza. Come viene generata la saggezza? Dalla comprensione. Quindi sì, non c'è questo passo di comprensione che piano piano calma le attività di questa vita, calma le afflizioni come l'avversione, l'abbrando, tutte queste cose. È impossibile sviluppare concentrazione, impossibile. Quindi processo analitico di riflessione, ci familiarizziamo con le cose e piano piano vedrete che ci sentiamo meglio, ci sentiamo un po' più leggero, no? È come quando abbiamo preso un raffreddore, no? Abbiamo preso un raffreddore e prendete le medicine la sera e si svegliate la mattina, siete un po' meglio. Questa sensazione. Ok, vi ringrazio per la vostra pazienza. Grazie. Ci vediamo domenica. Siamo mercoledì, sì, domenica alle 9. E andiamo avanti col testo. Ok? Grazie, quindi... Domenica alle 21 o alle 9? Scusate, alle 9 di sera, alle 21. Ok. Quindi tutta questa energia virtuosa che abbiamo accumulato, cerchiamo di non perderla, quindi di indirizzare a uno scopo molto elevato, quindi dedichiamo tutto affinché tutti gli esseri ottengano la felicità, che ottengono la felicità della liberazione dello stato di Buddha, finché noi stessi velocemente otteniamo lo stato di Buddha, così potremo beneficiare tutti gli esseri senzienti. Generiamo, cioè dedichiamo anche tutte queste virtù per la lunga vita dei maestri autentici che insegnano il vero sentiero al di là della sofferenza, verso le vere cessazioni, e affinché l'insegnamento dimora a lungo senza degenerare in questa terra. Gyewa de nyo do do lama sangye drungyo ne androma jinyo maluba de yisala gopa jo janjo zemjo rembo je amakye abana genyo je yama nyamba nyamba yo gone gondyo belwa jo gare rame gorme chingande Dem dam dewa malu juwene Chenre ziwa tenzin gyatso yeye Shabesite Do den yu di Da zu jin ye Sambre gyama di Den dan dro wa Kuna gambe da Gyama jitsu Lo zan drapayi Tembe nyambo Rindu se ju Jo That's it.